di tamburi in mostra, 8:05 minuti. Beh, primo ho lasciato il brano misterioso, ma secondo me poi non tanto misterioso, è interpretato dalla Peter Thomas Orchestra, era un classicone dei Rolling Stones. Beh, stasera al binario 69, per chi mi scrive, magari lo riascoltiamo, il titolo di questo brano. Sarà mio ospite, quindi vi aspetto, come aspetto le vostre risposte al 333-180-9494. Ho lasciato finire il vinile, così avete prova provata della selezione in 33 giri. No, è stata una distrazione. Radio Città Fujiko, la radio del jazz e dell'arte, siamo in contemporanea, anzi la abbiamo esattamente nei tempi giusti, l'apertura dell'esposizione Concetto Pozzati. Ho conosciuto Concetto Pozzati esattamente in un'epoca di mia piena attività cestistica, veramente alla fine degli anni 80, inizio anni 90, quindi un impegno sportivo veramente molto molto intenso, e vedevo questo professore, non sapevo fosse professore, neanche artista, lo vedevo costantemente alle partite, al torneo dei giardini, sempre presente, persona veramente molto signorile, dava del lei a tutti, questo è un aspetto che a me piace tantissimo, una grande da non confondersi con un aspetto formale, anzi lui ha iniziato con l'informale per rimanere in tema artistico. E io giustamente, vedendo anche un uomo di statura notevole, pensavo fosse, oltre che appassionato, giustamente ho sentito il suo nome in quanto presente anni or sono in Fortitudo, Virtus, poi nella Reier Venezia, e quindi con una continuità. Alla fine mi dissero: guarda che è professore dell'Accademia delle Belle Arti, diventò anche assessore alla cultura dal 93 al 96 per il comune di Bologna, e quindi, vista la mia passione, chiaramente allora, per il tempo che potevo permettermi dedicato all'arte, ho iniziato ad approfondire questa conoscenza, ed è stata una conoscenza veramente molto molto interessante. Arriva ai giorni nostri con una mostra a lui dedicata, come ho detto, l'inizio con l'informale, gli aspetti di una originalità nell'interpretazione pop, alcuni oggetti che diventano immagini veramente significative per gli affetti, per la vita, per i percorsi, ecco, percorsi, questa è una parola importante, percorsi ciclici all'interno dell'esposizione dedicata a Concetto Pozzati a Palazzo Fava, apre ufficialmente domani, sarà fino all'11 febbraio 2024. Io ringrazio tantissimo per la disponibilità la curatrice Maura Pozzati, la figlia di Concetto, saluto anche Jacopo che conoscevo anche come atleta, lui molto più giovane di me, ma con Maura Pozzati, curatrice o co-curatrice in questo caso per quanto riguarda l'esposizione a Palazzo Fava, sono riuscito a intercettarla subito in conferenza stampa e immediatamente abbiamo iniziato a chiacchierare. Siamo con Maura Pozzati per l'imminente apertura a Palazzo Fava dedicata a Concetto Pozzati, già dal titolo XXL, magari una taglia che mi andrebbe anche bene. Buongiorno Maura. Buongiorno, sicuramente era la sua taglia di magliette, di felpe, quando voleva che gliele portassi quando ero a New York, mi diceva: mi raccomando, XXL, extra extra large. È un titolo ovviamente ironico che abbiamo dato io e mio fratello, anche molto facile, perché si intuisce immediatamente che si tratta di lavori di grandi dimensioni, quindi sarà una mostra, è una mostra perché finalmente abbiamo finito di allestirla ieri, dove sono esposti per la prima volta degli inediti, degli ultimi cicli che ha dipinto prima di morire, e soprattutto i grandi dittici, che erano quadri che lui faceva alla fine di ogni ciclo pittorico, perché mio padre procedeva per cicli pittorici, e che faceva alla fine come un commiato, come un addio, come proprio anche un abbandono dell'ossessione di quell'oggetto, di quel ciclo, che fosse fiore, orologio, telefono, chiave, e che teneva per sé e non metteva in vendita, un po' perché sono veramente difficili da vendere, mettere nel mercato dei quadri fuori misura,

tra l'ambient e il soul, questo è un brano di Piero Piccioni riportato da Kid Loco. Leggendo le origini da voi in provincia di Padova, la nascita in questa città veramente molto attenta per le espressioni artistiche, la nascita alla fine degli anni 50 mi pare, di questo gruppo N, gruppo di artisti. Arte di cui magari avremo modo di parlare. Intanto però aggiungo che legati all'esposizione vi sono visite guidate, laboratori, mostra sia per famiglie, per le scuole, il pittore burattinaio, incontrare, ricordare, sviluppare, ritagliare la natura degli oggetti e istruzioni per l'uso e poi guardarsi allo specchio e progettare se stessi. È molto interessante la sala dedicata appunto alla realtà degli specchi con la quale Pozzati ha lavorato tantissimo, eh? Come ho detto, vi saranno visite guidate per grandi e piccini, come si dice, soprattutto per piccoli alla domenica per tutta la durata dell'esposizione, quindi guardate per quanto riguarda il non solo un prestigioso e pregevole catalogo, ma anche quella che è una realtà di incontro e di comunicazione legata all'esposizione. Ora un piccolo stacco musicale, Santucci Scoppa, portiamo anche un po' di sonorità dell'epoca, dopo aver ascoltato Binfield e Kid Loco, ci porteranno alla pubblicità, poi si rientra per continuare a dare presentazione alla mostra Palazzo Fava XXL. Ah, poi quando rientriamo con il brano, tra virgolette, misterioso per l'appuntamento questa sera a Binario 69. A tra poco.

Allora, qui è difficile contarli, nel senso bisogna stabilire se il dittico sono due o uno, e poi c'è un lavoro nella sala superiore perché ci sono anche esposti in mostra i disegni e le opere su carta, e anche questo è molto importante, c'è un lavoro di 301 disegni, e quindi sono 301 o uno, comunque contando uno una cinquantina di opere di grandi dimensioni. Grazie Maura e buona giornata. Grazie mille, buona giornata a te. Scusate il gioco di parole, per quanto riguarda l'arte nei percorsi passati, quella che viene definita la tradizione, e poi l'esposizione invece nell'ispirazione con il contemporaneo. Questa è una delle realtà che danno espressione artistica nella maniera più concreta, ecco, per l'esposizione XXL a Palazzo Fava fino all'11 febbraio. Consiglio anche gli appuntamenti relativi all'esposizione, per quanto riguarda famiglie e scuole, che saranno sul sito di Palazzo Fava, saranno Genius Bononia, la curatela per quanto riguarda l'organizzazione. Anche anche un'altra anticipazione per quello che è un appuntamento che a breve sarà in presentazione ufficiale, alla quale la rubrica in mostra non può assolutamente mancare. Intanto con James Taylor Quartet facciamo uno stacco musicale, torniamo in diretta tra pochissimo per la conclusione odierna della rubrica in mostra. Get yourself down to the floor, get up, do it. Niente, il brano qui Rolling Stones che ho proposto prima, che era inserito anche nella colonna sonora di un film con Whoopi Goldberg, che prendeva il nome dallo stesso titolo, mi pare, e dalla proposta della Peter Thomas Orchestra per questo Crowd Norther Soul. Sto aspettando ancora. Get up, do it till you feel some more. Get yourself down to the floor. Get up, do it. Get yourself down to the floor. Get up, do it till you feel some more. Get yourself down to the floor. Get up, do it. Get yourself down to the floor. Get up, do it till you feel some more. Get yourself down to the floor. Get up, do it. Get yourself down to the floor. Get up, do it till you feel some more. Get yourself down to the floor. Get up, do it. Per la rubrica in mostra per le grandi esposizioni, tra l'altro a breve non potrò essere in conferenza stampa, ho il jet lag, ma avremo modo di recuperare telefonicamente, come spesso accade, per quanto riguarda Palazzo dei Diamanti, Achille Funi. Questa è un è un'altra imperdibile. Oggi per la Pinacoteca di Bologna, anche questa arriverà negli studi di Radio Città Fujiko al Breakfast Club, con la co-curatela di curatela di Barbara Gelfi e Raffaella Morselli, Guercino, Guercino nello studio. Laura, risposta esatta, ti aspetto questa sera, ovviamente tu in compagnia, e ci mancherebbe, per una bella serata al binario 69. Grazie, sì, il brano è Jumping Jack Flash, è bella la versione, bella, eh? Bene. Tanto intanto grazie, nuovamente buongiorno, anche se ormai stiamo terminando questa nostra prima colazione. Comunque, come vi ho detto, a breve la presentazione di Guercino nello studio alla Pinacoteca a Bologna. Anche questa esposizione verrà portata ai microfoni in mostra. Grazie a voi per l'attenzione, grazie a voi per aver fatto colazione con il Breakfast Club. Stiamo volgendo alla conclusione. Domani triplo appuntamento in mostra, come diceva mia nonna. Oh, parla prema! Era la tipica espressione quando ne combinavo una delle tante, no? Ormai era diventata consuetudine, qualche mio malestro. E quando mia madre diceva, oh, sai cosa ha fatto? La sua risposta era sempre, oh, parla prema! Come se fosse la prima volta, insomma. In questo caso non è un malestro, tutt'altro, avremo Herb, Giulietta e Romeo, ho già contattato Roberto Latini, uno spettacolo molto interessante anche per la sua presentazione, insomma, come viene narrato. Poi avremo il deposito delle memorie della Certosa con Alessandro Tampieri e non finisce qui, perché procediamo poi con la rassegna Agora alla Casa del Popolo di Castello d'Argile. Caloroso abbraccio, grazie per l'attenzione, a breve Liberi Dentro, dopodiché la pubblicità porterà la rassegna stampa, non dimentichiamo l'Edipo enciclopedico con argomenti pruriginosi da quel che ho capito, grazie Roberto Di Domenico e Piero Di Domenico e Roberto Raspadori, confondo anche i nomi adesso con la fretta. Poi il giovedì che è Grande Rock dopo la rassegna stampa, il Grande Rock con Angela Zocco e Andrea Gozza, ok? Ecco, questa volta abbiamo portato bene a termine la presentazione del format Rock and Roll Radio dalle 10.30 alle 12.30. Vi aspetto per la colazione in diretta, domani mattina alle ore 7 per la vigilia di weekend da passare assieme. Un buon giovedì, nonostante insomma c'è qualche colore grigio, i colori magari li porterà Radio Città Fugico, anzi ne sono certo. Domani a colazione alle ore 7. Ciao a tutte e ciao a tutti dal vostro William Piana. A domani, ciao!